aku membantu kesemrawan yang terpampupan seperti kesai kuniversa. Parlo una luna gigante bianca come neve mi cade davanti. Sono storia come tante, e molte cose ora non sono importanti. Quel che resta qui.